dalla padella nella brace. Già apostrofata come più bella che intelligente dal premier, Rosy Bindi si trova ancora di più in imbarazzo. Berlusconi, per riparare al malfatto, l'avrebbe infatti invitata a Palazzo Grazioli per una galante cena riparatrice. Piuttosto, avrebbe risposto la combattiva Bindi, vado in pellegrinaggio alla Madonna del Carmine. Rose rose per te, ho comprato stasera, il tuo cuore lo sa, cosa voglio dare.